Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Mi trovo nei Musei Vaticani, dove da pochi giorni è stata riaperta una sezione molto molto importante. Questa sezione in realtà è un colossale edificio lungo 63 metri che collega le due ali lunghe dei Musei Vaticani. Si chiama il Braccio Nuovo. Questo Braccio Nuovo venne costruito a seguito di un'incredibile avventura che era stata vissuta dai papi e dalle loro collezioni artistiche quando arrivò Napoleone in Italia. Perché Napoleone richiese al Papa dei risarcimenti in opere d'arte e queste opere vennero consegnate agli emissari di Napoleone e, pensate, via carro e via mare e via fiume furono portate tutte quante a Parigi. Quando la stella di Napoleone tramontò, Antonio Canova, che tra l'altro aveva aiutato Napoleone a ricevere le opere, cambiò la gabbana e aiutò il Papa a riportarsi indietro le opere d'arte e naturalmente si perdettero parecchi pezzi e quindi fu necessario riallestire all'interno dei Musei Vaticani una nuova ala, ecco il Braccio Nuovo, per ospitare queste meravigliose collezioni. Ecco, adesso il Braccio Nuovo è stato riaperto dopo anni di restauro, quindi vale veramente la pena dare un'occhiata, anche perché questo luogo venne concepito con una grandeur senza eguali all'interno dei musei, perché si sapeva già che lì dovevano essere collocate le grandi statue che sarebbero state ricomprate dal Papa anche sul mercato antiquariale. E quindi questo salone grandioso ha intanto marmi antichi ovunque, i pavimenti sono fatti di marmi romani di recupero, le pareti sono piene di lastre di marmo antico, ci sono delle enormi nicchie che ospitano apposta le statue e proprio passeggiando in queste enormi nicchie incontriamo delle statue celeberrime, per esempio l'Augusto di Prima Porta, chiamato così perché fu ritrovato nel 1860 in quella zona di Roma, che è l'immagine forse più celebre che noi abbiamo dell'imperatore Augusto. Quindi abbiamo modo di ritornare, diciamo così, in un museo che venne aperto al pubblico nel 1822 e che oggi torna a rifulgere in tutta la sua grandezza.